intuizioni, note, pezzi di cuore, stringere il dolore, la paura di sciupare le ore per me. Illuso, ostinato musicista fallito, vivere, vagare per trovare qualche senso da dare in me, senza silenzio. Per trovare un senso al vero.